Rieccoci di nuovo in onda, siamo sempre su Radio Alma, I colori dell'anima, e buonasera a tutti da Cristina e Buonasera da Barbara. ciao Barbara. Allora, dopo questo piccolo problema tecnico che come ogni tanto la radio ci sorprende sempre, siamo di nuovo qui, siamo ritornate insieme dopo una breve pausa di qualche mese e devo dire che mi fa molto piacere ricominciare la trasmissione con te, Barbara. Anche a me, anche a me. Mi siete mancati tutti. Ah, anche tu ci sei mancata. E questa sera facciamo una nostra puntata su un argomento nuovo, Attuale, sì. un argomento che non abbiamo mai affrontato. E allora, il titolo? Il titolo, allora, siccome parleremo di startup, il titolo sarà Alla scoperta alla scoperta delle start-up. delle startup. Ok. E alla scoperta delle start-up avremo un ospite che più tardi parteciperà insieme con noi, chiacchiereremo, faremo tante domande, ma intanto se volete partecipare, se volete anche voi fare qualche domanda, ci potete chiamare al numero di telefono che Barbara dirà subito. Se chiamate dal Belgio, il 02 345 2656. Se ci chiamate dall'Italia, basta aggiungere il 0032 all'inizio. Poi Esatto. Intanto ci potete ascoltare su 101.9 oppure su radioalma.eu in streaming. ci potete scrivere su Facebook. Esatto. Ma intanto mandiamo un'altra canzone? Mandiamo una canzone, cosa Ok. proponi? José James Trouble. Se funziona. Ma questa sera non vuole funzionare. Vabbè, tipo il Vediamo se welcome team funziona. No, per me. questa sera non vuole funzionare niente. No, sento, arriva. Vabbè, allora niente, continuiamo la nostra conversazione. Allora, Cristina, abbiamo detto di parlare, che parliamo sulle startup. Cosa sono le Esatto. startup? Tu lo sai? Andando. Ah, quindi imparerai qualcosa anche tu, anch'io devo dire. Ma meno male che abbiamo il nostro esperta, sulle startup. Sì, che ci raggiungerà tra Tra poco. poco, Ma sì. intanto, a cosa ti fa pensare il termine startup? Beh, una cosa che comincia, non so, siccome so un po' cos'è, non so spiegarmi, ma startup, sì, una cosa che vuoi provare e vedere se funziona. Esatto, Esatto, quindi come anche questa sera noi proviamo e vediamo se funziona. il motto della serata. Ma noi ogni tanto siamo sfortunate, però di solito. vabbè, guarda, io la prima volta. Ah. Ho sentito qualcuno, un ascoltatore mi ha detto che la mia voce è molto bassa, non si sente molto. L'ho Cristina. alzata, infatti, Ah, adesso dovrebbe sentirsi meglio. ora meglio. Sì, adesso è meglio. Grazie, Ok. grazie, l'ascoltatore. Grazie a tutti quelli che ci seguono. E allora. Allora, dai, Cristina, la canzone non funziona? No, non funziona. Ok, allora propongo di, siccome questa trasmissione si chiama I colori dell'anima, che colore daresti a questa puntata? O aspettiamo finché sappiamo più sulle startup, come vuoi. Io direi di dare un colore e devo dire che a me il colore che mi viene in mente è il nero o il grigio. Ok. Perché mi fa pensare al metallo, delle lavorazioni, le creazioni. Ecco Ok. qua. Ok, bene. A me mi fa pensare più all'argento. L'argento anche per il metallo, diciamo, ma anche perché è comunque un colore di medaglia. Quindi, non so, una startup per me ha una connotazione positiva, tipo qualcosa che dai, proviamo, vediamo se funziona e se diventa una cosa con success, una cosa che Che riesce subito. ecco. E quindi per me anche l'argento è forse un po' più, sì, sarebbe il colore l'argento. Va bene, quindi vogliamo premiare la startup già nel suo isolino. Beh, l'idea è comunque carina di una startup, però io non vedo l'ora di parlare col nostro esperto che ci sta aspettando. Adesso però io rivelo già il suo nome, il nostro esperto sulle startup si chiama Paolo e lui lavora in una startup a Londra, come ci racconterà lui poi dopo. E sfortunatamente adesso anche lui a Londra non poteva venire qui, quindi parliamo su Skype. Adesso dobbiamo un po' vedere di connetterci con lui. Io so che è già pronto, sta aspettando, è molto contento di poter parlare qui con noi. Ma adesso funziona! Oh. Ok Paola, allora ci sentiamo dopo la canzone. Sì, a tra poco. Siamo di nuovo in onda dai Colori dell'Anima, sempre Cristina e Barbara con voi. E questa sera abbiamo una specie di temporale elettromagnetico nella nostra radio che ci sta facendo un po' impazzire, ma comunque siamo qui per parlare con voi di startup. E, allora, la nostra puntata si chiama Alla scoperta delle startup, quindi adesso Cristina sta cercando di chiamare Paolo, il nostro esperto, che ci racconterà tutto sulle startup. Intanto, se voi avete delle domande o volete sapere anche, non so, qualcosa in più di quello che ci racconterà Paolo, potete chiamarci. Il nostro numero è il 02345-2656. Potete anche scriverci su Facebook, su Radio Alma, I Colori dell'Anima, ci trovate. Sì. Cristina. Sì, potete partecipare alla nostra trasmissione. E intanto, visto che abbiamo qualche problema tecnico e che non riusciamo a connetterci subito con Paolo, un po' come si vede che da tanto tempo che non veniamo alla radio. Beh, sembra. Beh, tu, Cristina, comunque sei venuta alla radio. Sì, sì, non tanto. Non tanto? No, sono venuta una volta sola. Però adesso ce l'abbiamo fatta perché ho collegato tutto e dovrei riuscire a contattare Paolo. Vediamo, aspettiamo. Paolo, ci senti? Paolo, vediamo se Paolo ci sente. Il nostro esperto da Londra. Ecco, lo stiamo chiamando. Pronto? Ciao Paolo. Ciao, buonasera. Ciao Paolo, scusa per il ritardo, ma come hai sentito abbiamo avuto qualche problema prima col concierge, poi... Prima non riuscivamo ad entrare, non riuscivamo ad aprire la porta. Ehi. Poi non riuscivamo ad accendere. Mi sentite bene? Sì, ti sentiamo bene. Come va a Londra? Ah, molto bene, grazie. E Bruxelles? Sì, molto bene. Sempre piove, sempre bagnati. Ah, beh, allora, guarda. È tipico. Che adesso fa bello. Adesso fa... una bella serata, tanto per cambiare. Ah sì? Da voi è bello? Sì. Ah, bello. C'è chi ha fortuna nella vita. Eh sì. Bene. Paolo, allora, tu sei il nostro esperto sulle startup oggi? Ti ho già tipo chiamato esperta 100.000 volte, adesso sarai stressato, oh mio Dio. È tutta la pressione adesso, sì. No, non preoccuparti. Siccome noi non sappiamo molto sulle startup, tu sei esperta comunque con tutto quello che sai, sei più esperta di noi. Cristina, cosa? Ok. Sorpresa! Allora, Paolo, innanzitutto ci vuoi raccontare un po' di te? Tu come mai sei esperta di startup? Cosa ci racconti? Perché ci lavoro in una startup. Da 2 anni a questa parte. O perlomeno, io sono un ingegnere elettronico. Mm-hmm. Mi sono trasferito a Londra qualche anno fa e da 2 anni lavoro in questa startup dove, appunto, sì, una piccola azienda dove sviluppiamo delle tecnologie che si applicano a diverse cose, ecco. Io, ripeto, sono un ingegnere elettronico, quindi mi occupo principalmente di sviluppare l'hardware, del prodotto e un po' di software. Poi in una startup devi fare un po' di tutto alla fine, perché sei un'azienda piccola, quindi bisogna adeguarti. Ma Paolo, se dovessi dare un colore alla nostra puntata, che colore daresti? Ho sentito che prima avete parlato del grigio. Sì. Non lo so, sì, ha un che fare sulla tecnologia, magari il grigio. Però dovessi dare un colore, darei, ma non lo so, forse il blu, perché è un colore che mi piace molto. Ah. Ok. Bella spiegazione, bello. Allora, un blu, grigio, argento, nero. Blu elettrico. Blu elettrico, bello, ok. Ok, è una cosa molto soggettiva in effetti. Cristina, mi sa che no. Paolo, senti a Cristina? Sì, io vi sento tutti e due. Ah, ok. Sì, mi sento. Ok, bene. Sono io allora che non sento bene. Ok, dai, allora, quindi ha detto che voi nella vostra startup, quanti siete nella vostra startup? Allora, adesso siamo in 12. Ok. E la startup ha 3 anni, quindi è cresciuta, quindi è cominciata con l'idea l'ideatore, il fondatore Arni, con la sua partner, hanno cominciato, erano in 2, poi in 3, in 4, quando sono stato assunto siamo diventati 8, ora siamo in 12, quindi poco per volta l'azienda cresce, il tipo di lavoro cambia, e l'idea originale era quella di, ed è ancora quella di, sviluppare uno strumento musicale virtuale, perché è un po' il trade union tra tutti o quasi i dipendenti, cioè la musica è quello che ci collega. Quindi voi create strumenti musicali virtuali? Anche, perché questa è l'idea, questo, diciamo, è come è nata la startup. Quindi quando ho iniziato io, quello era l'obiettivo principale. Adesso in realtà, perché poi una startup nasce, ma poi si sviluppa in maniera diversa, uno cambia anche direzione a seconda di cosa trova più conveniente. Adesso continuiamo con la musica, però ci siamo aperti ad altre tecnologie, a altre applicazioni, per esempio la robotica, oppure delle cose che possono essere utilizzate nella vita di tutti i giorni, su per esempio automobili o delle tecnologie come tecnologie di controllo, perché quello che facciamo in buona sostanza è un dispositivo che permette di controllare, un'unità di controllo per qualunque cosa, da un drone piuttosto che un videogioco piuttosto che altre cose. Ma aspetta Paolo. Sì. Il nostro pubblico è molto molto vasto, e anche noi siamo così vaste che non ci... No, allora, spiegaci in maniera molto molto semplice che cosa fate. Allora, il nostro prodotto è fondamentalmente una specie di iPad, che si può controllare. L'iPad ha un touchscreen, giusto? Sì, sì. Quello che proponiamo noi è che si può controllare questo pad, ma anche senza toccare, quindi solo mettendo una mano, un oggetto qualunque sopra questo pad, viene percepito da dei sensori, e questa informazione può essere utilizzata per tante cose, quindi per dei comandi wireless, per esempio. Se voglio accendere la luce di casa, posso farlo, se collego, posso fare diverse cose. Quindi tu avresti sto tipo iPad con te, sei tipo lontano da casa, ma adesso vuoi accendere la luce di casa, fai clic clic sul tuo iPad e a casa si accende la luce. Per esempio, sì. Ok, wow. Ah. Interessante. E questo è quello che era possibile grazie alla tecnologia oggigiorno. Sì. E tu ne hai uno di questi qua? Non ancora, non ancora. È ancora in fase di sviluppo. Ah, ecco, volevo dire, non si può ancora comprare un oggetto del genere? No, al momento ci sono altre aziende che hanno prodotti simili, però il nostro prodotto non è ancora in commercio, no. Ok. Ok, wow, interessante, perché poi ci racconterai su altre startup, però mi sembra che l'altra startup di cui quando ci siamo preparati per questa puntata era un po' simile, no? Una di Torino. Quella di Torino si chiama Intoino, e è nata 3 anni fa. Io ho conosciuto il fondatore perché studiava al Politecnico di Torino come me. È stata un'idea molto, molto interessante. Hanno vinto diversi premi all'estero, hanno avuto riconoscimenti, hanno avuto fondi. E praticamente Intoino è un gioco di parole perché parte da Arduino. Cos'è Arduino? È una cosa un po' da nerd, ora devo spiegare. Arduino è stato un successo dell'industria piemontese negli ultimi 10 anni, perché sono dei ricercatori in Piemonte che hanno sviluppato una scheda elettronica che permette di fare tantissime cose. Questi di Intoino hanno preso questa scheda Arduino e hanno creato delle app per il telefono. E hanno, diciamo, permesso di applicare nuova tecnologia usando questa scheda. Quindi, so se, per esempio, nel loro video promozionale vedi che possono accendere o spegnere una luce soffiando piuttosto che battendo le mani. Sì. Sfruttano dei sensori per controllare delle cose. Quindi è simile come idea, sì, però la tecnologia è diversa. Ok, wow, interessante. Ma quindi... tutte le startup che conosco io hanno a che fare con la tecnologia, è così, immagino, o ci sono anche startup, non so. In realtà no, perché una startup può fare tante cose. Un altro mio amico lavora con una startup a Milano dove rivendono pantaloni, vendono capi d'abbigliamento. Ah. Quindi è un po' un falso mito che la startup debba avere a che fare con la tecnologia. È vero che tante startup si occupano di tecnologia, cercano di inventare qualcosa che ancora non c'è, ma in realtà la startup può solo dire che è un business piccolo, quindi può essere di qualunque tipo. Ok, ma quindi per definire una startup diresti che è una... ok, dillo tu, come definisci una startup? Una startup è un business creato dal basso, quindi è una persona, chiunque, che abbia un'idea, che abbia un'intuizione e vuole svilupparla senza necessariamente essere, insomma, molto facoltoso. Uno può avere un'idea che si può sviluppare con un budget ridotto e la propone questa idea. Questa idea viene apprezzata da qualche investitore o da, insomma, da anche una tanta gente, questa idea può prendere forma. Forse sono questi siti adesso come Kickstarter o crowdfunding che si occupano di promuovere queste idee. Ah, e quindi è più semplice oggigiorno avere dei fondi, avere delle risorse per sviluppare le proprie idee. Quindi secondo me la startup è un'idea che chiunque può avere e che può essere sviluppata. Bella definizione. Quindi tutte le startup comunque hanno cercano di trovare dei fondi su Kickstarter o siti del genere, però comunque molti lo fanno. Quindi all'inizio c'è l'idea, poi cercano di trovare fondi o qualcuno che sponsorizza l'idea, la creazione, e poi si lavora su quello. Ok. Esatto. Comunque la prima cosa è l'idea. Vabbè, sì. No, non i soldi, l'idea. Se uno ha una buona idea, poi i soldi verranno. Bello, interessante. Bello, bello. Bene. Allora facciamo una piccola pausa, ascoltiamo una canzone e poi ritorniamo a discutere con Paolo. Giovanotti, mi fido di te. Rieccoci in onda con I Colori dell'Anima, sempre con Cristina e Barbara su 101.9 Radio Alma. Ci state ascoltando anche da radioalma.eu o alcuni di voi ci stanno seguendo da Facebook. E questa sera parliamo di startup, alla scoperta delle startup, insieme con il nostro ospite speciale Paolo, che da Londra ci sta dando un po' di tempo per una bella chiacchierata sulla sua esperienza con le startup. Vai Barbara. Ah, qui io sono troppo bassa? Adesso va bene, ok, perfetto. Paolo, come è organizzata la startup? Quindi, allora, chi ha avuto l'idea? È la tua startup? E sei stato tu ad avere l'idea? No, allora, la startup è nata da un'idea di Arni. Arni è il fondatore e il proprietario dell'azienda. Armin è un personaggio che ha fatto un po' di tutto nella vita, ha lavorato come cameraman, come designer, come musicista, ha fatto un po' di tutto. Ha sempre avuto molte idee riguardo alla tecnologia e alla musica, e quando ha avuto la possibilità ha fondato questa azienda, appunto con l'idea di creare qualcosa che nella musica ancora non c'era, cioè uno strumento musicale virtuale di altissima qualità, qualcosa che i musicisti avevano bisogno. Mm-hmm. I musicisti non solo, anche i produttori musicali. Per cui lui si è trasferito a Londra con la sua partner Helen, e hanno cominciato come musicisti, hanno conosciuto diverse persone a Londra nell'ambiente musicale, e hanno avuto appunto questa idea per lo strumento musicale virtuale, e hanno cominciato a svilupparla. Chiaramente all'inizio si parlava di tecnologie più primordiali, cose, era l'idea, e poi col tempo la tecnologia si è affinata, e ora il nostro prodotto è un prodotto molto molto valido. Siamo in grado di ottenere dei risultati molto, molto simili agli strumenti reali, che era quello l'obiettivo. E è chiaro che c'è ancora molto da fare, c'è ancora molto da lavorare, e col tempo e con le risorse andremo avanti. L'organizzazione, è un ambiente di lavoro molto, molto flessibile, ovviamente. Una bella domanda. Allora, i lati positivi, per quel che mi riguarda è che è un ambiente familiare, è un ambiente dove diciamo, non sei un numero, non sei come in una grossa azienda dove conti poco, lì conti molto, anche il tuo lavoro conta molto e lo vedi. Un altro lato positivo è che vedi comunque un business che cresce, non lo so, per me quando sono arrivato vedevo questa azienda piccola e ora sta crescendo, siamo ingranditi, e quindi è anche una bella storia da vedere, da vivere. Assolutamente, assolutamente, che non è banale, ecco, non è scontato. Io vedo tanta gente che si lamenta del proprio lavoro, io devo dire la verità, sono abbastanza fortunato. Le cose negative, è che è sempre un po' un arrembaggio, perché ci sono momenti più belli, momenti meno belli. Certe volte il lavoro è tanto e non sai come gestirlo, e bisogna essere preparati a tutto, ecco. C'è una cosa da fare, nessuno sa come farla, non importa, bisogna farla in qualche maniera. Mm-hmm. Sì, a volte è duro, però sicuramente stimolante, e poi sì, insomma, una volta che ottieni il risultato è fantastico. Mm-hmm. Paolo, io avrei una domanda un po' più indiscreta. Quello che vi pagano dipende anche un po' dal successo del prodotto, o sempre la stessa, tipo vi danno sempre la paga uguale? No, perché adesso non avete ancora successo, immagino, siccome non si può ancora comprare, per adesso immagino è sempre... Siamo in fase di ricerca e sviluppo adesso, sì, non siamo ancora alla fase della vendita e del marketing. Comunque è chiaro che con l'ingrandirsi dell'azienda ci sono degli incentivi, ci sono delle motivazioni in più, quindi sì, anche a livello economico, chiaro. Mm-hmm. Okay. No, allora, la musica che vi ho consigliato è molto legata alla mia azienda, perché l'artista in questione, Fudge, è tra l'altro anche consulente della nostra azienda, è un amico di noi, un amico dell'azienda, che ha questa passione per la musica futuristica, e quindi lo strumento di per sé no, ma la tecnologia che sviluppiamo è stata usata nella sua produzione musicale, ed è uno molto attento, un artista molto attento alle tendenze, alle nuove idee che circolano, quindi cerca sempre di stare al passo, quindi sicuramente è collegato. Quindi a parte l'amicizia o la collaborazione che facciamo, ma anche a livello concettuale, Fudge e Sound Display sono sullo stesso piano. Rieccoci con I Colori dell'Anima, siamo Barbara e Cristina in onda, e oggi stiamo parlando sulle startup, quindi alla ricerca delle startup alla scoperta. Mamma mia. Allora, siamo qui e stiamo parlando con il nostro ospite Paolo, che lui sta a Londra e lavora in una startup molto interessante. E ci stava raccontando un po' come funziona da loro, nella loro startup. Forse adesso, prima che dimentico di nuovo, Paolo, ci vuoi dare il sito della startup? Così a chi interessa può andare a vedere cosa fate. Sì, sì, vi sento. Certo, il sito è sounddisplay.com. Sounddisplay.com, ok. Sounddisplay.com, una sola D. Sound display, sì, ok, una D, sound display, ok, perfetto. Esatto. Ok, Cristina prima mi stava dicendo che lei sarebbe interessata a sapere un po' più su come funziona con i fondi, come trovate fondi. Sì, nel senso che l'idea è la prima cosa. I soldi, nel nostro caso, c'è stato un investitore privato e poi abbiamo avuto dei fondi dal governo britannico, perché abbiamo partecipato a un concorso per innovazione e tecnologia, abbiamo vinto e quindi abbiamo avuto degli altri fondi. E questo vale un po' per tutte le startup. Poi ci sono diversi tipi di investitori che investono all'inizio quando servono relativamente pochi soldi, investitori che investono quando la startup è già avviata, e poi ci sono questi siti che citavo prima, che si basano sulla retribuzione popolare, cioè tu proponi un'idea al popolo di internet, diciamo così, e questi, se ritengono la tua idea valida, sono disposti a finanziarla, chiaramente con somme ridotte, più o meno ridotte, però tu conti sulla quantità. Quindi è una... Come si chiamano questi siti? Ce ne sono parecchi, mi sembra di capire. Ce ne sono parecchi. I più grossi sono Crowdfunding, mm-hmm, e Kickstarter. Ok. Kickstarter, sì. Quindi chiunque può partecipare e può finanziare l'idea che più gli piace. Esatto. Può partecipare sia in maniera attiva, nel senso che proponi un'idea, sia come utente, e quindi finanzi un'idea, ma da un album musicale a un ristorante a qualunque cosa, ecco. Ah, interessante. Sì, sì, molto interessante. Io a volte ci guardo su quei siti, tipo su Kickstarter, ho già visto delle cose. Per esempio, una cosa che era carina anche era una... come si chiamano? La hammock, Cristina o Paolo, hammock. Come si chiama? L'amaca. Ok, una amaca che si può di un materiale molto molto forte, però che non pesa quasi niente e che è molto sottile, quindi la puoi portare dappertutto e puoi anche appenderla. Aveva un sistema speciale per appenderlo dove volevi, tipo a due alberi, non mi ricordo, però sembrava molto molto pratica. Quasi quasi l'avrei anche comprata. Però e poi sì, vabbè, poi altre cose, tipo un drone. Come si dice in italiano? Un drone. Drone. Un drone, ecco. Che funziona anche via un'application sul tuo telefonino, che vola, e puoi fare le foto, fai le foto dal cielo, tipo quando vuoi, lo voli e poi col cellulare vedi quello che vede il drone, e quando vuoi fare la foto clic, quindi è una cosa connetta. Cose interessanti comunque ci sono. È una specie di, cioè, insomma, sono tutti un po' piccoli scienziati che inventano cose nuove. No, però mi sembra è una cosa molto interessante, perché un sito disponibile al grande pubblico rende il prodotto, ma anche l'idea, insomma, subito aperta a tutti. Mm-hmm. Tipo, quindi feedback, sembra... anche ti dà feedback per vedere l'idea, piace o non piace. Sì. Mm. Esatto. Bello, ma bello. Quindi... Paolo, a sì. me interesserebbe sapere come hai trovato quella startup, come hai fatto a, non so, a lavorarci? Ho avuto culo. Ah. Vabbè, quello sì. Nel senso, niente, questi Sound Display assumevano, hanno contattato tante università a Londra e non solo. Io stavo lavorando al mio dottorato in un'università a Londra e quindi ho ricevuto questa mail, ho risposto all'annuncio, sono andato, ho fatto un colloquio e mi hanno offerto lavoro. Quindi in maniera molto, molto veloce, molto sì. Ma quindi ti hanno cercato loro, non li hai cercati tu? Loro cercavano il livello generale, non hanno cercato me personalmente. Vabbè, dai, beh, diciamo sì, che dai, hanno cercato te. È un modo di dire. Quindi sì, no, è stato molto molto veloce, probabilmente comunque sì, erano in una fase in cui assumevano diverse persone perché avevano bisogno di ingegneri e quindi se uno era disposto a fare un po' di tutto poteva essere assunto. Diciamo che in una startup, io vedo, conosco anche altri amici che lavorano in startup, bisogna sapersi adattare al lavoro che c'è da fare, bisogna anche saper accettare di imparare cose nuove, è una sfida. Sì. Quello sembra quindi, molto interessante. Sì, questo mi sembra molto interessante e molto motivante anche dal punto di vista professionale. Ma allora, anche se tu non sei il creatore di questa startup, dall'esperienza che stai avendo in questo momento, immagini che un giorno è una cosa che faresti, è qualcosa che creeresti anche tu, un nuovo progetto? Questa è un'altra bella domanda. Mi avresti chiesto 2 anni fa, avrei detto di no. Adesso vedo che le cose sono possibili. Ah. Quindi non lo escludo. Ok. Ah, bene, bene. Bene, bene. Ma bisogna, per creare una startup, bisogna avere un po' la, come dire, la fibra, un po' amare il rischio. Beh, quello ma in tutti i business, in tutte le attività commerciali. Esatto. Quindi sì. Bisogna saper calcolare i rischi. Paolo, la tua startup è a Londra, c'è una ragione perché è a Londra? Immagino Londra è una città molto cool, molto dove vedi un po' di tutto e di dove cose sono possibili. Come mai a Londra? E i creatori vengono da lì o sono andati lì per la startup? No, Arnie e Helen erano già a Londra quando hanno fondato la startup, però è vero che a Londra ci sono delle alte vibrazioni, c'è un'atmosfera molto, molto suggestiva, molto stimolante. Conoscerete, immagino, la Silicon Valley in California, quella è famosa, dove nascono Facebook, Google. A Londra adesso c'è il Silicon Roundabout, che è un quartiere dove ci sono tantissime startup, tantissime aziende che si occupano di tecnologia e che sono nate negli ultimi 10 anni, quindi è un ambiente molto come si può dire, favorevole per questo tipo di business. Quindi sì, tante cose sono possibili a Londra, e anche soprattutto la gente che c'è a Londra è molto facile conoscere gente che si occupa di arte piuttosto che di fotografia, di cinema, di musica, di faccio incontrare giornalisti, e quindi è molto molto stimolante. Molto dinamico. Assolutamente. Bello. Sembra molto interessante. Bene, bene. Dai. Bene. Noi siamo quasi in chiusura. Abbiamo sì, qualche minuto ancora. Ancora qualche minuto. Paolo, c'è qualcosa che ci vuoi ancora raccontare delle startup? Abbiamo dimenticato qualcosa o qualcosa che ci vuoi... Qualche aneddoto interessante e divertente della tua esperienza? Aneddoti, ce ne sarebbero tanti. basta dirne una. Ultimamente abbiamo cambiato uffici e quando sei in una startup devi fare tutto, compreso i traslochi. Ah. Per una settimana abbiamo guidato furgoni, caricato e scaricato scrivanie, fatto piani di scale con dei tavoli giganteschi. Fare una startup è anche quello, e andare a mangiare tutti insieme, andare a far festa insieme, uscire insieme, essere una famiglia nel bene e nel male. Quindi è un ambiente penso molto diverso dalle aziende grosse, quindi esatto. E bisogna provarlo, ecco. Almeno una volta nella vita bisognerebbe tutti dovrebbero lavorare in una startup almeno un anno nella vita. Addirittura. Wow, bello. Bene, bene, molto positivo il tuo messaggio, molto sì, sì, molto positivo. Sì, sì. Vabbè, immagino un po' meno positivo se poi non ti trovi bene con la gente, se però non rimani lì, poi immagino, quindi cosa molto bella secondo me, essere una, come hai detto tu, una piccola famiglia nel bene e nel male. È bello, dovrebbe essere sempre così al lavoro, però infatti, purtroppo. Ma forse la cosa che lega di più le persone che lavorano in una startup è proprio l'interesse per il business sì, del quale si occupano. Esatto, quindi... poi l'avventura della startup. Esatto. Sì. Bene, bellissimo. Molto stimolante, molto motivante. Sì, mi sa che con queste parole così positive, Paolo, ti ringraziamo per l'intervista, ti ringraziamo per tutto quello che ci hai raccontato sulle startup. Adesso siamo quasi quasi esperte anche noi, anche se ci manca l'esperienza sì, lavorativa. Però magari se ci viene un'idea. Esatto, esatto. Se abbiamo un'idea noi ti chiederemo a te come fare. Come per assolutamente, non c'è problema, assolutamente. Bene. Paolo, se ci viene a trovare a Bruxelles, ci viene a trovare anche in studio una volta, facciamo un altro, perché sei stato molto molto bravo. Sì, grazie mille per aver partecipato. Grazie a voi, grazie a voi, buona serata. Grazie anche alla a te, prossima, ciao. Ciao. E noi ciao. Concludiamo questa puntata con una canzone, un'altra di Fudge, forse. Sì, Fudge Planet Radio. E con questa canzone vi diciamo arrivederci a tra un mese, ci saremo di nuovo entrambe. E... buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao. Ciao. Oh no, aspettiamo un po' ancora la musica, si fa aspettare. Intanto a chi interessa la musica di Fudge, adesso... si scrive proprio F-U-D-G... come quello che si mangia, il fudge che si mangia, e trovate su YouTube o su diversi SoundCloud trovate la sua musica. Okay.